Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti Estate, voci dalla nuova emigrazione. Oggi ci spingiamo fin nel sud-est asiatico, lungo strade che percorriamo di rado. Come ben sapete, sono infatti soprattutto Europa e Nord America le aree geografiche scelte dai nostri under 40 per cercare opportunità professionali all'estero. Ma c'è anche chi, con uno sforzo ulteriore di intraprendenza e un pizzico di coraggio, finisce per provarci in paesi ben più inediti. Oggi vi portiamo in Cambogia e a Singapore. Oltre 2000 km separano questi due paesi, incastonati tra la Cina e l'Indonesia. Puntata davvero esotica per giovani talenti con due professioni tra loro molto diverse, ma altrettanto affascinanti. La prima storia che vi raccontiamo è quella di Matteo Marinelli, trentenne esperto di microfinanza a Phnom Penh. Un consiglio, non perdetevela assolutamente. Nome: Matteo. Cognome: Marinelli. Età: 30. Città di origine: Civitanova, Marche. Studi: economia delle amministrazioni pubbliche e istituzioni internazionali. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2002. Per andare dove? Bangladesh. Perché? Volontario con Grameen Bank. Quale lavoro svolgi attualmente? Analista finanziario di rischio e investimento. Dove? Phnom Penh, Cambogia. Tornerai? Chi lo sa? No. Musica made in Cambogia per introdurre oggi la storia di Matteo Marinelli, una vicenda davvero straordinaria la sua che vi garantisco vi emozionerà. Matteo ha solo 30 anni ma sulle spalle ha tutta l'esperienza del grande viaggiatore. Partiamo dalla fine come facciamo spesso, prendendo spunto da una riflessione che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it. Quando vado per lavoro in India e in Cina guardo con ammirazione una punta di rammarico i coetanei che sono tornati nei loro paesi a cercare di fare o creare qualcosa. Stanno avendo un'opportunità ineguagliabile, quella di modellare il proprio destino. Io non ce l'ho mai avuta questa possibilità. Farlo in Italia sarebbe bello, ma forse in un'altra vita. Matteo, chi modella i destini dell'Italia oggi? Un'elite di gerontocrati formatisi sulla logica corporativa e familistica oppure giovani di talento liberi e indipendenti? Tenderei a supportare l'idea che l'Italia sfortunatamente sia gestita e governata da un'elite di gerontocrati basata su una logica semplicemente corporativa, familistica e clientelare, nel senso che all'estero, soprattutto in altri paesi, qui in Asia come in India e in Cina, vedo giovani formatisi all'estero che tornano con possibilità di carriera, possibilità di crescita, opportunità di lavoro, spronati dal governo e dalle varie istituzioni, sia private che pubbliche, per migliorare lo stato delle cose. Da noi purtroppo la situazione è completamente diversa. Io me ne sono andato anche perché non sono riuscito a trovare lavoro in Italia. Tu a 19 anni lasci le Marche e ti trasferisci a Milano per frequentare l'Università Bocconi. Cosa ti spinge là? Mi spinge principalmente il corso di laurea. Il corso di laurea in amministrazioni pubbliche e istituzioni internazionali, che era abbastanza specifico e focalizzato su questo settore dell'economia internazionale, che poteva dare poi sbocchi internazionali con una carriera con le Nazioni Unite o con NGO o con Banca Mondiale, IMF, eccetera. Quale giudizio dai di quell'esperienza nel complesso? Giudizio eccellente. L'Università Bocconi a quell'epoca aveva solamente corsi di laurea in lingua italiana, quando adesso so che ci sono anche corsi di laurea in lingua inglese. Però comunque è stata un'esperienza fantastica, positiva, perché mi ha dato la possibilità di viaggiare e fare summer schools a Londra, New York e in Giappone. A 23 anni ti laurea, in tasca il premio Ulisse per il curriculum più internazionale, una premonizione del tuo destino. È vero che a cambiarti la vita in qualche modo fu l'incontro con Muhammad Yunis, storico fondatore della Grameen Bank, la più importante banca di microcredito al mondo? Sì, perché io all'epoca sapevo pochissimo della microfinanza, del microcredito, non sapevo chi fosse la Grameen Bank, e quel pomeriggio a Milano, durante una conferenza organizzata dalla Fondazione Cariplo, lo avvicino, gli chiedo se posso aiutarlo e lui mi dice: certo che sì, ti troveremo qualcosa da fare, basta che vieni in Bangladesh. Così partii con armi e bagagli, mi trasferii per un'estate intera in Bangladesh ad essere volontario con Grameen Bank. Quando si dice i casi della vita, tu però un tentativo di lavorare in Italia lo fai a Roma per le organizzazioni internazionali, la risposta qual è stata? Semplice, no perché ero giovane, no perché avevo poca esperienza, no perché comunque il mio profilo pseudo-economista con un focus su microfinanza e microcredito non era molto ricercato. E no perché non eri raccomandato, vero? Sicuramente vengo da una famiglia normale e non ho mai avuto una raccomandazione, quindi a Roma di porta in faccia ne ho avuto abbastanza, anche se io ero un persistente, mandavo email, telefonate e mi presentavo fisicamente. Avevano proprio fiuto per il talento, potremmo dire. Tu così molli gli ormeggi e parti, il tuo curriculum negli anni che seguiranno una successione impressionante di paesi: Thailandia, Serbia, Tanzania, Afghanistan. Come arrivi in quei luoghi, ma soprattutto per fare cosa? In Thailandia ci sono arrivato grazie all'Università Bocconi, lavorando come volontario delle Nazioni Unite per la FAO. In Serbia ci sono arrivato tramite le mie forze e ho effettuato una consulenza economica. In Tanzania invece ho lavorato con una NGO canadese che si chiama MIDA ed era un project officer di un progetto di microfinanza nell'ovest del paese. E in Afghanistan invece sono stato mandato nel 2005 da una società di consulenza di New York a portare assistenza tecnica ad un NGO francese che si occupava di microfinanza a Jalalabad. A un certo punto tu però lasci il mondo delle organizzazioni internazionali deluso e disgustato, queste le tue parole, e approdi al settore privato. Perché? Cos'era successo nel frattempo? Ho visto che l'impatto soprattutto delle agenzie del sistema delle Nazioni Unite non era poi così importante e tangibile come molto spesso fanno credere. E soprattutto quello che avevo visto in Thailandia mi aveva un po' demoralizzato dal fatto che vedevo persone lavorare in queste organizzazioni abbastanza avanti con l'età e abbastanza menefreghiste del lavoro, che non lasciavano spazio a giovani vogliosi di fare e cambiare le cose. Ho trovato delle organizzazioni dove era veramente difficile rompere le varie barriere culturali e di corporate culture che c'erano. Una macro proiezione, potremmo dire, dell'Italia. Raccontaci però il processo selettivo con Blue Orchard, il leader mondiale nella gestione dei fondi di microfinanza. Anche lì non serve la raccomandazione come a Roma, ma un buon curriculum, non sbaglio? Assolutamente, hai ragione Sergio. Io ero in Afghanistan, ero alla fine della mia consulenza, mando il curriculum per la prima volta a Blue Orchard e loro mi chiamano per un primo colloquio. A quel colloquio ne seguono altri quattro, seguono dei test fatti al quartier generale e alla fine riesco a passare le varie selezioni ed arrivare a Ginevra nel febbraio 2006. Dove resti 4 anni facendoti le ossa sia nell'ambito finanziario che dell'etica professionale. Spiegaci in breve però cos'è la microfinanza, perché questo forse va anche chiarito per i nostri ascoltatori. Aiuta le persone che vivono in povertà ad aumentare il loro reddito, a creare imprese sostenibili, a migliorare le loro condizioni di vita e dei loro cari. La microfinanza va considerata come uno strumento di finanza inclusiva per combattere la povertà. Dentro la microfinanza troviamo il microcredito, che praticamente significa elargire piccoli prestiti di denaro a persone bisognose, i microrisparmi, la microassicurazione, quindi praticamente sono servizi finanziari e non destinati ad una particolare categoria economica e sociale disavvantaggiata. Lo scorso anno il grande salto, vieni trasferito in Cambogia per aprire a soli 30 anni il primo ufficio dell'organizzazione nel sud-est asiatico. Il tuo team ora gestisce un portafoglio di 30 istituzioni per un totale di 140 milioni di dollari. E qui arriva la domanda: per arrivare lì ha dovuto essere buono e servizievole col tuo capo, facendoti cooptare come spesso avviene qui, o piuttosto hai raggiunto questo risultato solo sulla base del tuo curriculum e delle tue capacità? Come tante altre organizzioni in giro per il mondo, abbiamo concetti di meritocrazia e di trasparenza che attuiamo nel nostro lavoro quotidianamente, quindi se io ho raggiunto questi risultati è perché avevo dietro un'organizzazione che credeva in me, avevo un team eccellente e soprattutto mi sono semplicemente basato sulle mie forze, sulle varie extra hours nell'ufficio ogni sera. Diciamolo e urliamolo, diciamolo a chiare lettere, perché così dovrebbe essere. Quando ti volti indietro a guardare l'Italia ti sfoghi, ma per favore Sergio, come si può andare avanti così? Matteo, non lo so, me lo chiedo spesso anch'io. Spiegaci cosa significa guardare l'Italia, a volte difendere l'Italia dall'altro capo del mondo. È difficile perché da difendere non c'è poi tanto. Ovviamente essendo italiano rimango attaccatissimo al mio paese, ai miei affetti, però da difendere c'è poco e non vedo un futuro roseo per le generazioni più giovani. Matteo, nell'email che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it fai una lista dei motivi per cui l'Italia non riesce ad attrarre talenti. In breve, elencaceli perché mi interessano molto. Poche università, secondo me, sono veramente connesse con il mercato del lavoro. Tagliamo molto la ricerca, quando la ricerca e lo sviluppo dovrebbero essere la base di ogni società migliore per un futuro più roseo. Ci sono tagli alla cultura, i salari sono veramente bassi, se li paragoniamo al resto dell'Europa, al resto del mondo, c'è ancora una società clientelare e una disoccupazione molto forte che non viene agevolata dalle politiche non solo di questo governo, ma anche dei governi passati. È proprio una crisi sistemica di un paese che cresce dello 0%, 0.1% ogni anno. Domanda di rito: come vedi l'Italia all'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? L'Italia la cambierei innanzitutto immettendo forze fresche nelle varie classi politiche e dirigenziali del nostro paese. Mi piacerebbe avere università più connesse con il mondo del lavoro in Italia e all'estero, mi piacerebbe che i giovani avessero delle possibilità di fare ricerca, di essere creativi e di puntare comunque sul grande capitale umano che noi abbiamo, cercare di riportare a casa alcuni dei talenti che se ne sono andati e non sono assolutamente incentivati a tornare.